Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. .17:05 Focus Economia, un saluto da Vincenzo Miglietta. Clima decisamente estivo anche sui mercati finanziari, con una giornata caratterizzata da scarsi volumi di scambio. Per dare un'idea, Piazza Affari a metà giornata si era ad un terzo di quanto scambiato lo scorso venerdì, conseguenza questa anche di una sessione povera di dati importanti sul fronte macroeconomico. La tendenza europea ha contagiato allora anche Wall Street, di fatto piatta, lo vedremo tra breve, dopo i 9 record consecutivi. In lieve ripresa negli ultimi minuti le borse europee, indebolite comunque in parte della giornata dal petrolio in discesa e dal settore viaggi e tempo libero, e in questa dinamica non fa eccezione sicuramente Piazza Affari, che andiamo a vedere insieme. FTSE MIB in questo momento più 0,11% a 22.054 punti. I migliori e i peggiori sempre di Piazza Affari. Vediamo i migliori: Banca Generali, Mediaset, Italgas, A2A, Banco BPM. I peggiori: Telecom Italia, Buzzi, Unicem, Unicredit, Saipem, Leonardo. Per quanto riguarda i titoli più scambiati, abbiamo Unicredit, Eni, Enel, Ferrari, Intesa, San Paolo e Banco BPM. Gli altri listini europei: DAX, Francoforte più 0,38%, FTSE 100, Londra quindi più 0,17%, CAC Parigi più 0,31%, Wall Street, lo dicevamo poco fa, in lieve ripresa con il Dow Jones più 0,17%, Standard & Poor's 500 più 0,16%, Nasdaq più 0,18%, il cambio euro-dollaro in questo momento 1,1746, questo per quanto riguarda il cambio. Lo spread poi dei titoli di Stato, BTP nei confronti del Bund tedesco a 151,60 punti, meno 0,52%. Sin qui dunque gli andamenti dei mercati che ritroveremo tra circa mezz'ora. Tra gli altri temi ricorrono oggi i 10 anni dell'inizio della crisi economica dei mutui subprime, culminata con il crack di Lehman Brothers. Il Sole 24 Ore, lo ricorderete, fu il primo in Italia a darne notizia. Ripercorreremo allora quelle vicende ed ancora la vicenda TIM e i suoi rapporti con i francesi di Vivendi, e poi ultima parte del programma dedicata ad un tema che abbiamo in parte anticipato ieri: il predominio dell'e-commerce. Pensiamo tutti ad Amazon per esempio, e i suoi effetti negativi sui negozi tradizionali. Sin qui dunque il nostro sommario, potete scriverci al 349-238-6666. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve, come sempre, le materie prima. L'oro piatto a $1,258 l'oncia, il petrolio meno 0,9% a $48,9 il barile. In Cina, Pechino canta vittoria, la battaglia contro la fuga di capitali è stata vinta, invertendo un trend che negli ultimi 2 anni aveva fatto temere per la stabilità finanziaria della Cina. I flussi di capitale nei primi 6 mesi del 2017 sono risultati infatti positivi, il surplus è stato di $16 miliardi rispetto ad un deficit di $417 miliardi nel 2016. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che una vittoria è stata ottenuta anche sul fronte del sostegno al renminbi, che è la moneta cinese, salito quest'anno del 3,4% dopo il calo del 6,5% del 2016, riflettendo gli sforzi della banca centrale per limitare gli speculatori e aumentare la fiducia. Notizie anche oggi per quanto riguarda la Germania. Ieri abbiamo detto e raccontato di una produzione industriale in diminuzione e cala a sorpresa l'export della Germania a giugno, che segna un meno 2,8% rispetto al mese precedente contro il più 0,2% atteso, ma la caduta delle importazioni, ben meno 4,5%, fa ugualmente allargare, sebbene in maniera inferiore alle stime, il surplus della bilancia commerciale a 22,3 miliardi di euro rispetto ai 22 miliardi di maggio. E quanto si ricava dai dati diffusi dall'ufficio di statistica tedesco, secondo cui le esportazioni sono salite dello 0,7% anno su anno e il surplus è sceso dai 24,5 miliardi del giugno 2016. Corretto per gli effetti stagionali di calendario, il surplus di giugno 2017 è pari a 21,2 miliardi. I cambi, ancora cambi, abbiamo visto prima il rapporto euro-dollaro 1,1748, ora invece ci occupiamo della sterlina, che continua a cedere terreno sui mercati internazionali, toccando i minimi da 10 mesi contro l'euro. La valuta d'oltremanica scende a 0,9800 pence per euro, segnando la quotazione più bassa da ottobre 2016. Ora dall'OCSE dei dati per capire la tendenza dell'economia internazionale, interpretando quindi le evoluzioni economiche future. E l'OCSE cosa dice? Che si continua a segnalare una dinamica di crescita stabile nell'insieme della zona OCSE. Il listino composito indicatore anticipa una dinamica di crescita stabile anche per l'Italia, gli Stati Uniti, oltre che Giappone, Canada ed Eurozona. Nel Regno Unito si confermano invece i segni di un possibile calo, stime positive per Germania, Francia, Cina e Brasile. Tra le economie emergenti, l'indice indica una crescita stabile in India e segni di calo in Russia. Veniamo alle notizie del nostro paese, partiamo dal Financial Times, che anche qui cerca di proiettarsi in avanti sulla nostra crescita, sul nostro prodotto interno lordo. E allora vediamo cosa dice il Financial Times. Una serie di dati confortanti ha rafforzato la fiducia nella ripresa italiana e ora l'Italia spera nella migliore performance economica dalla crisi, con i dati sul PIL del secondo trimestre che arriveranno la prossima settimana. Gli economisti, secondo il Financial Times, si aspettano un più 0,3% dopo il più 0,4% del primo trimestre, che terrebbe la terza economia della zona euro sul binario giusto per centrare il miglior risultato dalla crisi economica. Tra gli altri dati incoraggianti, l'attività nel settore dei servizi, che a luglio ha raggiunto il livello più elevato degli ultimi 10 anni, e la disoccupazione in calo, risultati che hanno aiutato il governo Gentiloni ad affrontare un'estate difficile a causa della crisi dei migranti, e che gli darà maggiore margine nel costruire un bilancio carico di sfide prima delle elezioni. Quindi queste le parole del Financial Times. Ora la Ragioneria Generale dello Stato, che parla di pensioni, requisito per il pensionamento di vecchiaia, anche in presenza di un blocco dell'adeguamento automatico alla speranza di vita, verrebbe comunque adeguato a 67 anni nel 2021, in applicazione della specifica clausola di salvaguardia introdotta nell'ordinamento su richiesta della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea, quanto viene sottolineato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ancora pensioni, interventi di legge diretti non tanto a sopprimere esplicitamente gli adeguamenti automatici sulle pensioni, inclusi gli scatti di età, ma a limitarli, differirli o dilazionarli, determinerebbero comunque un sostanziale indebolimento della complessiva strumentazione del sistema pensionistico italiano, così sempre la Ragioneria Generale dello Stato. Che aggiunge ancora: il processo di elevamento dei requisiti minimi e il relativo meccanismo di adeguamento automatico sulle pensioni sono dei fondamentali parametri di valutazione dei sistemi pensionistici, specie per i paesi con alto debito pubblico come l'Italia. Ora brevemente uno dei temi che andremo a toccare tra breve, il rapporto tra TIM e i francesi di Vivendi. Vivendi conferma di non esercitare alcun controllo di fatto su Telecom Italia ai sensi dell'articolo 93 del testo unico della finanza e dell'articolo 2359 del codice civile. La partecipazione detenuta in Telecom Italia infatti non è sufficiente a determinare alcuno stabile esercizio di un'influenza dominante sulle assemblee dei soci di Telecom Italia. Questo è quanto afferma il gruppo dei media francese in una nota dopo le richieste della Consob. Andremo ad approfondire questo tema perché Vivendi, ricordiamo, controlla è socio comunque detentore di una quota molto importante ed è strano che poi dica di non controllare Telecom. Per quanto riguarda invece Banca Etruria, l'ex vicepresidente Pierluigi Boschi, padre del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena, sembra vicino all'uscita dell'inchiesta sul crack di Banca Etruria. La procura di Arezzo pare infatti intenzionata a chiedere l'archiviazione della sua posizione, una mossa non del tutto inaspettata, visto che sarebbe in linea con un'ordinanza firmata dal GIP nell'aprile 2016. Sulle vicende di Banca Etruria i procedimenti giudiziari viaggiano paralleli a quelli dell'autorità di vigilanza, con risultati non sempre sovrapponibili, dopo Banca Italia, che nel 2014 e nel 2016 sanzionò gli amministratori dell'Istituto Aretino per un totale di circa 4,7 miliardi, in questi giorni stanno arrivando le multe di Consob per ulteriori 2,8 milioni di euro. Ci avviamo a chiudere le notizie in breve. Prima però uno degli effetti più sorprendenti del caldo di questi mesi su parte dell'economia italiana. Ne abbiamo parlato con la Coldiretti nelle scorse trasmissioni, torniamo a parlarne oggi sempre con la Coldiretti e parliamo delle api e della produzione di miele. Il caldo e il clima pazzo sconvolgono le api, considerate un indicatore dello stato di salute della natura, e la produzione di miele made in Italy è più che dimezzata rispetto alla media, per un totale quest'anno attorno alle 10.000 tonnellate. E quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che si tratta di uno dei risultati peggiori della storia dell'apicoltura moderna da almeno 35 anni. A provocare questa situazione è stato l'effetto delle diffuse gelate primaverili a cui ha fatto seguito il caldo e la siccità, con fiori secchi per la mancanza di acqua e i violenti temporali estivi. La nostra collega Teresa Trillò ha ascoltato su questo allora Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti, esperto di api. Andiamo ad ascoltare le sue parole. I cambiamenti climatici stanno influenzando moltissimo quella che è l'attività di un insetto come l'ape. L'ape sappiamo che è un insetto impollinatore che raccoglie sui fiori e sulle fioriture, per cui in un anno anomalo come questo, che è partito malissimo con inverno che non è mai stato tale, poi abbiamo avuto gelate, quindi questo effetto siccità così prolungato con temperature molto elevate hanno sicuramente disturbato l'attività delle api, tanto da dare una proiezione di quello che sarà raccolto di miele per quest'anno in forte contrazione, meno 50% rispetto a un'annata normale. Sicuramente ci sarà una crisi determinata dal fatto che la produzione sarà così scarsa, poi siamo molto preoccupati anche per quello che è l'effetto di impollinazione. Ricordiamo che le api sono importanti non soltanto per il miele che producono e per gli altri prodotti dell'alveare ovviamente, ma soprattutto per la loro attività di impollinazione, di cui vengono a beneficiare sia le culture coltivate, ma anche tutta una serie di fioriture spontanee, di piante, di fiori che costituiscono la biodiversità del nostro paese. Quindi è un fenomeno che è sicuramente preoccupante e che speriamo che possa essere contenuto nei prossimi anni. Cosa si può fare per salvaguardare le api? Ma ciascuno di noi può dare un suo aiuto, un suo apporto. Sappiamo che grazie anche a Coldiretti è stato introdotto un sistema di etichettatura di origine del miele, e quindi quando compriamo un vasetto di miele, sia che lo acquistiamo direttamente da un apicoltore che lo acquistiamo attraverso altri canali di commercializzazione, scegliendo miele italiano cerchiamo di preservare e di aiutare questa filiera che è così importante per la biodiversità e per l'economia. L'intervista sulle api, sulle conseguenze del caldo eccezionale di quest'estate sulla produzione del miele ci porta direttamente a chiudere le notizie in breve, ad aprire il nostro primo tema. Oggi 8 di agosto 2017, non tutti forse ricorderanno che esattamente 10 anni fa, tra il 7 e l'8 di agosto, scoppiava la crisi economica i cui effetti perdurano in tante parti del mondo, ancora nel nostro paese. Sappiamo quello che è successo in questi 10 anni, quello che hanno dovuto fare i singoli governi, le istituzioni economiche internazionali, a partire dalla Banca Centrale Europea. Tutto nacque negli Stati Uniti. Ricordiamo allora che sono state emesse multe da oltre 150 miliardi di dollari, a tanto ammontano complessivamente le sanzioni inflitte alle banche negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni per aver innescato la crisi finanziaria. Secondo un'analisi del Financial Times, che ricorda come il 7 agosto 2007 sia considerato generalmente il giorno in cui scoppiò la crisi finanziaria, le istituzioni si sono in gran parte riprese dalla grande recessione, ma la crisi ha rimodellato l'economia e i mercati e i suoi effetti sono ancora ben presenti. Ci riferiamo al 7 di agosto del 2007, a poche ore dopo, da noi era già l'8 agosto, il Sole 24 Ore, primo in Italia, diede notizia del flop di fatto di 3 fondi di BNP Paribas imbottiti di mutui subprime. Annunciavano la loro chiusura a causa proprio del prosciugarsi della liquidità. Da lì nacque tutto. A scriverne per il Sole 24 Ore fu Fabio Pavesi, che abbiamo in collegamento con noi, e lo ringrazio. Buon pomeriggio, Fabio. Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Fabio, allora ritorniamo all'8 agosto del 2007. Fu una notizia tra le tante, o tu avesti già un po' la percezione che era qualcosa di più grande? No, beh, nessun intento autocelebrativo. Ci capitammo per caso, come spesso avviene, un caso del tutto fortuito, però c'era un indicatore, una sorta di spia rossa che noi abbiamo visto e quindi siamo interrogati, che era molto particolare, era del tutto irrazionale. Cioè, nella settimana dal 27 luglio al 7 agosto alcuni fondi monetari cosiddetti dinamici, poi spiegheremo perché, tra sì, cui 3 fondi della banca francese BNP Paribas, ma non solo, accumulavano delle perdite del 5%. Allora uno dice 5% in una settimana, l'anomalia dov'era? Era nel fatto che un fondo monetario investe in titoli di Stato a breve, cioè in Italia compra BTP, in Francia OAT, e comunque è un fondo che comprano i clienti che non vogliono correre rischi, insomma, dà un rendimento dell'1-2% all'anno, e quindi perdere il 5% in solo una settimana era clamoroso, nel senso che è come se un fondo azionario avesse perso il 30-40% in una settimana. Quindi qualcosa di evidentemente anomalo e grave era accaduto. Mossi da questa considerazione, ripeto, vista sulle performance che dicevano che qualcosa non funzionava, ci siamo, io e il collega Ossino, così abbiamo provato a indagare. Abbiamo ovviamente chiamato la banca il giorno, quella sera, ha rassicurato dicendo, certo, che c'era un errore di calcolo e comunque era tutto sotto controllo. In realtà il giorno dopo il nostro articolo, che appunto spiegava che lì c'era un problema che non riuscivamo ancora a individuare, ma che era un'anomalia profonda, che un fondo monetario non può perdere il 5% in una settimana, e quindi il sospetto che non ci fosse solo titoli di Stato, tenete conto che quel fondo veniva venduto alla clientela retail di BNP Paribas, e questo è un fatto grave, poi ci torneremo sopra. Ecco, la banca praticamente il giorno dopo pubblicazione dell'articolo, la banca congela i fondi, cioè inizialmente il suo amministratore delegato, che poi perse il posto, tale Prot, prima una dichiarazione, come dire, di rassicurazione, poi il giorno dopo l'uscita dell'articolo comunicano ai mercati che congelano il riscatto dei fondi, cioè nessuno poteva più prendere i soldi da quei fondi. Era quindi la dimostrazione, l'ammissione che qualcosa non funzionava. Si è scoperto nei giorni successivi che quello che non funzionava erano appunto le cartolarizzazioni, famigerati ABS e CDO, cioè i mutui subprime americani, erano stati impacchettati e erano finiti non solo nei bilanci delle banche, non solo americane ma anche europee, ma le banche, per non tenerle nei loro bilanci, quindi appesantire, certo, il bilancio della banca e sapendo che erano prodotti rischiosi, le avevano scaricati nei fondi comuni che vendevano alla clientela. Questo è l'altro passaggio inquietante, cioè clienti ignari compravano fondi monetari, tant'è che la dizione erano fondi monetari dinamici. Noi li chiamammo i fondi col turbo, ma era un turbo drogato, nel senso che il cliente si comprava un fondo pensando a un rendimento assolutamente senza rischio e in realtà stava comprando dei mutui subprime. Ecco, Fabio. Le borse quel giorno crollarono, certo, del 5%, cioè l'inizio della crisi fu il crollo delle borse mondiali dopo la comunicazione di BNP che congelava i fondi, il segno che il mercato aveva capito che questo problema non era riferito solo a BNP, ma era evidentemente un problema diffuso e il mercato prese consapevolezza quel giorno che la crisi dei mutui era deflagrata. Ecco, ma tu dici giustamente, prese consapevolezza il mercato, si poteva fare qualcosa prima? C'era modo di sapere che questi fondi che tu hai chiamato dinamici in realtà avevano in pancia prodotti, i famosi mutui subprime, il dramma vero inesigibili? Il dramma vero è che tutti gli operatori finanziari lo sapevano, nel senso che qualsiasi banca aveva fondi monetari dinamici in cui metteva una quota di mutui subprime per aumentare le performance, quindi era il segreto di Pulcinella nel mondo degli operatori finanziari. Cos'è che fa scattare, come dire, l'allarme? Il fatto che BNP si trova costretta a dire io congelo i fondi e quindi ammette che lì c'è un problema grande come una casa. A questo punto re è nudo, le borse tracollano perché percepiscono che una volta diventato pubblico, come dire, lo scandalo avrebbe, certo, innescato, come dire, la crisi più grande della storia del dopoguerra. Ecco, aiutami a ricordare, ma furono congelati solamente questi fondi americano? Scattò un congelamento di tutte le case che vanno i fondi monetari dinamici, cioè dopo BNP uscirono allo scoperto tutta una serie di case di investimento che chiudevano i loro fondi monetari dinamici, perché lì dentro appunto le banche, perché il fatto grave non è solo l'esplosione di questa ingordigia finanziaria, sì, per cui il mondo fu invaso da questi mutui subprime che venivano erogati a famiglie che poi non erano in grado di restituire il denaro e quindi diventarono insolventi. Il dramma vero è che questi mutui venivano distribuiti in giro per il mondo, cioè la banca non li teneva nel suo bilancio, ma consapevole del grado di rischio li metteva nei fondi comuni che vendeva la sua clientela. Era un meccanismo di distribuzione del rischio, peccato che veniva distribuito su clienti, certo, del tutto ignari. Fabio, scusami, però perché da un giorno all'altro poi il giochetto non ha più funzionato? Perché quella settimana che tu ci hai raccontato, che precedette l'8 agosto, iniziarono questi fondi a perdere? Iniziarono a perdere perché evidentemente qualcuno si era messo a vendere, cioè chi aveva capito, certo, c'è un film, sì, famoso sulla crisi in cui un personaggio di un hedge fund decide di scommettere sul crack dei mutui subprime, c'è un film bellissimo, adesso non ricordo il titolo, ma che racconta che lui aveva capito che i prezzi degli immobili stavano sostanzialmente scendendo in tutta America e questo aveva comportato il fatto che aveva stipulato un mutuo e non aveva risorse a fronte di una svalorizzazione del prezzo degli immobili, questi mutui sarebbero diventati insolventi. Ecco, c'era un consenso comune, nel senso tutto andava bene. Ricordiamo che dal 2003 al 2007 l'economia correva, le borse correvano a ritmi esplosivi, nulla faceva presagire che si fosse accumulato tanto di quel debito, come dire, debito malato, sì, nei mutui, certo, subprime. Ovviamente quando tu arrivi a questo grado di concentrazione di rischio, poi basta un niente a far esplodere la bolla. Ecco, quando poi è come con uno spilletto, come dire, bucare il pallone gonfiato, tu hai un effetto deflagrazione. Ricorderò che da quel giorno le borse hanno cominciato a scendere in modo vertiginoso. Io riguardavo l'indice Standard & Poor's, sì, era arrivato a quotare 1500 punti, appunto quell'8 di agosto, iniziò a perdere e non si fermò più fino al marzo del 2009, cioè l'indice della borsa americana italiana, scendete da 1500 punti a 700 punti nell'arco di poco più di un anno e mezzo, dimezzando la quotazione, la capitalizzazione di mercato. Dovete intervenire, poi ricordiamo, arrivò il primo fallimento bancario di Bear Stearns all'inizio del 2008, cioè sei mesi dopo la crisi dei mutui, ecco che cominciano a fallire le banche, proprio perché erano imbottite di questi mutui, scattò una crisi di fiducia tra le banche, perché il vero, come dire, detonatore fu la crisi di fiducia, cioè nessuno si fidava più di cosa c'era nei bilanci delle grandi banche americane, di conseguenza poi europee, e quindi nessuno faceva più prestiti banca su banca. La crisi di Lehman è nata da una crisi di liquidità, nel senso che nessuno ha più voluto prestare soldi a Lehman e Lehman è fallita nell'arco di 24 ore. Però il ci problema... domandiamo ancora, e ce lo scrivono anche al 349-238-6666, Fabio, perché i mutui di un mercato immobiliare come quello americano alla fine hanno creato la più grande crisi economica a nostra memoria? Perché anche in Europa è arrivata questa difficoltà? Dovrebbe essere una lezione, cioè noi dovremmo apprendere qualche lezione, cioè io constato questo, che questa crisi ha visto mettere in campo risorse pubbliche infinite, cioè il governo americano è intervenuto col TARP stanziando 700 miliardi in quelle prime ore, poi sono diventati 7 mila miliardi messi a disposizione per salvare le banche. In Europa noi abbiamo avuto i governi che hanno messo sul campo nell'arco di quegli anni circa 3 mila miliardi di aiuti pubblici per tenere in vita il sistema bancario. Certo. La Fed ha aumentato il suo bilancio mettendosi a comprare questi titoli malati, portando a 4 mila miliardi di dollari ed è tuttora a quei livelli. La BCE ha fatto altrettanto, cioè il mondo è stato salvato dall'attivismo dei contribuenti pubblici, dei governi e dalle banche centrali. Qual è il tema? Il mondo è stato salvato, si è vissuta una grave recessione finita nel 2010. Chi è che ha guadagnato alla fine? Perché molti di questi fondi pubblici sono rientrati, perché il governo americano è intervenuto prontamente, ha prestato soldi, se li ha fatti restituire e oggi il saldo è quasi positivo, cioè contributi pubblici degli americani sono stati usati ma sono anche rientrati. In Europa un po' meno. Noi potremmo oggi dire che la crisi è stata risolta. Rimane però un punto di domanda. Cioè chi è che ha guadagnato? In realtà se andiamo a vedere questo sforzo... Ecco Fabio, sì? Rimaniamo con il punto di domanda. Certo. Chi è che ha guadagnato? Cercheremo di rispondere, ci fermiamo un attimo per il meteo in diretta e poi rispondiamo a questa domanda. Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it vi presenta Focus Economia. Alle 17:33 di nuovo insieme Focus Economia, stiamo parlando della tempesta perfetta, ovvero l'8 agosto del 2007 scoppiò la crisi economica, 10 anni fa nata dal flop dei mutui subprime che mandò in tilt tante banche americane, conseguentemente molti istituti europei e le economie praticamente di tutto il globo. Ne stiamo parlando con il collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi. Con Fabio eravamo rimasti ad una domanda. 10 anni dalla crisi economica, tantissimi ci hanno perso, ma qualcuno ci ha guadagnato. Fabio. Beh, intanto volevo ricordare il film bellissimo che racconta in modo didascalico, è La grande scommessa, andatelo a vedere, va segnalato secondo me anche nelle scuole perché è alla portata di tutti, in modo molto semplice spiega questa ubriacatura della finanza creativa che portò poi alla crisi. Allora, stavamo dicendo, un costo è stato pagato perché i governi hanno dovuto iniettare risorse, in parte le hanno recuperate perché le azioni delle banche sono poi risalite e quindi poi i governi sono usciti con anche dei guadagni. La Fed e la BCE hanno allargato a dismisura i loro bilanci, hanno portato i tassi a zero. Quindi c'è stato uno sforzo sovrumano di tenere in vita il sistema finanziario mondiale e con esso l'economia che è caduta in recessione. Sì. Il fatto quasi paradossale è che se uno guarda a distanza di 10 anni scopre che molti ci hanno guadagnato, perché l'indice S&P, io lo guardo perché è la borsa di riferimento, dal marzo 2009 è salito da 700 punti agli oltre 2000 di oggi, cioè la borsa americana ha triplicato il suo valore dal 2009 a oggi con una salita quasi in progressione costante. Il resto ha fatto la borsa giapponese, hanno fatto le borse europee. Chi ha comprato dei BTP in quegli anni, avendo portato i tassi a zero, ha avuto dei guadagni in conto capitale pazzeschi, all'ordine del 30-40%. Qui c'è stata, di fatto, le politiche monetarie espansive, cioè questa immissione di liquidità pazzesca che il mondo ha sopportato, hanno di fatto beneficiato tutti quelli che possedevano attività finanziarie, quindi le stesse banche e anche quei fortunati, tra virgolette, che hanno usato il fatto che la crisi era stata scongiurata, sono tornati a investire sulle borse. Quindi scusami Fabio, innanzitutto... Però c'è un prego. Però. Uno può dire, bene, allora tutto bene quel che finisce bene. C'è un piccolo punto interrogativo. Il debito mondiale dal 2007 a oggi è oggi più alto del 30% rispetto all'inizio della crisi. È vero che il PIL mondiale è tornato a crescere, è vero che le economie sono tornate a crescere, in Europa poco, negli Stati Uniti un po' meglio, però uno si chiede, visto che questa crisi è nata da un eccesso di debito, oggi ci ritroviamo 10 anni dopo con il debito che è ulteriormente salito rispetto ad allora e... da domani le banche centrali cominceranno a normalizzare i tassi di interesse, cioè la Fed ha già cominciato a farlo, poi toccherà all'Europa. Allora i tassi risaliranno prima o poi, si andrà verso una normalizzazione, ma noi ci troviamo 10 anni dopo con un problema del debito globale che è molto più elevato di quello che fece scoppiare la crisi di 10 anni fa. Questo è il vero punto interrogativo, dovrebbe essere, come dire, un monito per il futuro, perché non riaccada quello che è accaduto 10 anni fa. Certo. Allora, innanzitutto devo fare i complimenti. Allora, Fabio, ti sei ricordato tu il film La Grande Scommessa. Nel frattempo, al 349-238-6666, almeno 5 messaggi, quindi 5 ascoltatori molto attenti, ci hanno segnalato il film La Grande Scommessa, sia in italiano The Big Short in inglese, Gino da Merano, Leonardo da Prato, eccetera, eccetera. Però rimaniamo nel fatto, Fabio Pavesi, che una crisi nata da un problema finanziario ha arricchito poi la finanza stessa 10 anni dopo, lasciando però le macerie di mutui subprime, debiti sovrani, euro sulle montagne russe e soprattutto la Brexit esplosi. Anche. Cioè, i deficit pubblici sono tutti esplosi, cioè gli Stati Uniti hanno dovuto andare in deficit per sostenere l'economia, l'Europa un po' meno perché è aggravata da un debito pubblico, soprattutto i paesi come il nostro. Per cui c'è stato uno sforzo collettivo di socializzazione delle pete, chiamiamolo così con un vecchio termine marxiano, e di privatizzazione dei profitti, di cui credo abbiano approfittato gli stessi che hanno generato la crisi. Questa è un po' la lezione amara, nel senso che i 150 milioni di dollari di sanzioni alle banche che vendevano questi prodotti, come dire, taroccati, sono una goccia nel mare rispetto poi ai guadagni che le stesse banche hanno realizzato sull'onda della ripresa delle borse e dei bond. E questo è il tema, cioè noi oggi raccontiamo dei 150 miliardi di multe che il governo americano ha comminato alle banche. Sembra una cifra enorme, ma noi dobbiamo pensare che lo sforzo collettivo del mondo è stato di 10.000 miliardi per sostenere quello che sembrava essere la fine del mondo finanziario. E quindi vanno messe, come dire, le cose vanno messe sul piatto dandogli il loro peso relativo. Fabio, grazie a Fabio Pavesi, collega del Sole 24 Ore. Abbiamo ricordato l'8 agosto del 2007 la nascita della crisi, nella quale ancora, anche se molto di meno ci stiamo trovando, noi cambiamo argomento e andiamo alla giornata dei mercati. Giornata dei mercati che affrontiamo con la collega di Radio Corre Il Sole 24 Ore, Flavia Carletti. Buon pomeriggio Flavia. Buon pomeriggio a tutti. Flavia, allora partiamo dal FTSE MIB, leggo più 0,08%, quindi giornata abbastanza piatta almeno per quanto riguarda Milano. Sì, esattamente, diciamo oggi la giornata è quelle classiche giornate estive in qualche modo, sia gli scambi sono stati abbastanza bassi e sotto la media, a metà giornata erano circa un terzo di quelli che erano stati venerdì scorso per esempio, e comunque anche privi di spunti particolari anche a livello macroeconomico, non sono usciti né dati rilevanti né per l'Italia ma neanche per la zona euro e neanche dagli Stati Uniti. L'attenzione su questo fronte è concentrata per venerdì, quando dagli Stati Uniti uscirà il dato sull'inflazione, quindi in attesa di quello c'è un po' di calma sul fronte macroeconomico e quindi anche mancanza di spunti. In più la stagione delle trimestrali sta ormai scemando negli Stati Uniti, oggi ancora qualche big si aspetta, per esempio Walt Disney alla fine dei mercati, però diciamo che il grosso delle società l'hanno già pubblicati, e anche in Italia tutte le big li hanno ormai resi noti al mercato, quindi diciamo è stata una giornata particolare in cui gli indici per quasi tutto il giorno hanno oscillato sulla parità, poi sono andati un po' in calo quando sembrava che Wall Street non riuscisse dopo un avvio debole a segnare di nuovo dei record, e poi invece proprio sul finale, grazie alla volata di Wall Street che ha aggiornato per l'ennesima volta i suoi record con il Dow Jones sui 10 massimi, diciamo con 10 sedute consecutive ai massimi, certo. 36 dall'inizio dell'anno, in qualche modo hanno, come si dice in gergo sportivo, tirato un po' la volata anche ai listini europei. Quindi Wall Street ha tirato un po' la volata ai listini europei, dati macroeconomici non ve ne sono stati, sono le classiche giornate, dimmi se sbaglio, Flavia, dove si procede a qualche realizzo. Sì, esattamente, diciamo che non molti titoli sono andati proprio un po' in ordine sparso, come gli stessi finanziari. Da una parte, per esempio, c'è stato Banca Generali, che è stato il migliore del FTSE MIB, sì, con un rialzo del più 2,45%, seguita da UBI Banca più 1,46%, mentre invece altri titoli sempre legati al settore finanziario sono andati male, per esempio Unipol ha perso l'1,28%, Mediobanca lo 0,28%, Generali lo 0,37%, quindi in qualche modo si è andati a cercare un po' occasioni eventualmente sui singoli titoli, non solo in Italia, ma lo stesso movimento è stato visto anche in Europa. Per esempio alla Borsa di Parigi il migliore e il peggiore del CAC 40 sono stati due titoli finanziari, da una parte Crédit Agricole e dall'altra Société Générale, quindi diciamo è stato un movimento che un po' probabilmente visto appunto il clima estivo che si è visto in tutta Europa. Sicuramente finanziari dunque in ordine sparso. Per quanto riguarda Milano, male i cementiferi. Sì, esattamente, Buzzi Unicem che è nel FTSE MIB ha perso l'1,36%, mentre invece Cementir che è nel resto, che è nel segmento quello non quello a maggiore capitalizzazione, ha perso l'1,65%. Questi titoli sono stati sotto riflettori in maniera negativa perché ieri sera è uscita la notizia che l'autorità antitrust ha multato una serie di società del settore più l'associazione di categoria Hi-Tech per multe complessive di 184 milioni di euro, accusandole di aver creato un coordinamento sui prezzi di vendita in tutto il territorio nazionale, e per Italcementi la sanzione, no scusate, Italcementi, per Buzzi Unicem, sì, la sanzione, certo, è di 59,7 milioni di euro, mentre invece per Cementir è di circa 5 milioni di euro, e quindi queste due società quotate sono state penalizzate alla luce di questa notizia, anche se alcuni analisti hanno espresso dei dubbi sul fatto che alla luce dell'annuncio dei ricorsi delle due società non possa arrivarsi eventualmente a una vittoria delle società o comunque un miglioramento delle sanzioni, perché fanno notare che l'Italia è un mercato molto maturo ed è anche uno di quelli dove i prezzi sono più bassi, quindi comunque adesso si aspetta l'esito di questi quando ci saranno di questi ricorsi che le società hanno già preannunciato. Ecco, poi stiamo assistendo, Flavia, almeno a questo inizio di settimana, ad un petrolio abbastanza debole, tutti dicono in attesa degli esiti dei vertici di Abu Dhabi, però per esempio è una debolezza che influenza i titoli del settore. Sì, esattamente, Eni ha perso lo 0,22%, mentre invece Saipem lo 0,93%, e il petrolio oggi per tutta la giornata è stato debole, aveva cercato di recuperare proprio sul finale, adesso per esempio il contratto al Nimex e il WTI con consegna a settembre è di nuovo in rosso, e diciamo appunto c'è questa attesa ad Abu Dhabi, sia ieri che oggi si sono riuniti i rappresentanti sia dei paesi OPEC che dei loro partner che però non fanno parte del cartello, per discutere di questa della riduzione della produzione petrolifera su cui erano già stati trovati accordi lo scorso anno per prolungarlo. Ancora non c'è stata un'indicazione precisa da questo vertice, sono state indiscrezioni sul fatto che l'Arabia Saudita voglia di nuovo ridurre le sue esportazioni dal prossimo mese, però appunto in attesa di indicazioni precise oggi il petrolio ha un po' pagato, adesso appunto ha recuperato rispetto ai minimi di giornata, però comunque ha accusato debolezza nel corso della seduta milanese. Ecco, tra brevissimo andremo a parlare di Telecom Vivendi, faremo un approfondimento proprio su questo tema qui. Allora Flavia, com'è andata Telecom oggi? Telecom oggi ha perso il 2,09% ed è stata la peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione di Milano, proprio ieri appunto a mercati chiusi c'è stata la risposta di Vivendi alle richieste della Consob, e la società francese ha negato di esercitare il controllo di fatto sul gruppo di TLC, e adesso il mercato si interroga su quelle che saranno le prossime prossime mosse, sia dei francesi che anche l'esito dell'ispezione della Consob e poi quella che è l'istruttore del governo legata alla cosiddetta Golden Power. Perfetto, grazie, grazie alla collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, Flavia Carletti. Noi ci fermiamo per le strade. Focus Economia. Sette e 46, Focus Economia, ultima parte, ci avviamo verso il giornale radio delle 18. Abbiamo chiuso la pagina dedicata ai mercati parlando di Telecom, della vicenda Vivendi. Allora ripartiamo da questo tema, dalla nota che Vivendi ha emesso per rispondere alla Consob. Ne parliamo con la collega alle Sole 24 Ore, Antonella Olivieri. Buon pomeriggio, Antonella. Buonasera. Buonasera Antonella. Allora diciamo subito che per chi non si intende e non conosce benissimo la situazione, fa strano leggere che il primo azionista di TIM, ricordiamo, con il 23,9% e 9 consiglieri nel consiglio di amministrazione, di fatto manda a dire alla Consob: non esercitiamo nessun controllo. Ho sintetizzato bene questa nota, Antonella? Sì, diciamo che è una questione tecnica, tecnico-giuridica, cioè è evidente a tutti nella sostanza che effettivamente Vivendi ha consistentemente rafforzato la presa su Telecom, perché non solo esprime i 2/3 dei rappresentanti in consiglio, sì, al suo amministratore delegato, che è in questo momento anche l'amministratore delegato ad interim di Telecom, e comunque ha messo un suo dirigente a dirigere tutte le operazioni, cioè il Amos Genisch, che era l'ex amministratore delegato da GVT brasiliana. Certo, certo. Quindi è chiaro che se vogliamo stare alla sostanza, dici, ma come fai a dire che non controlli? Che non controlli. Il problema è giuridico, perché la Consob ha fatto riferimento alle norme del codice civile anche per valutare se c'è l'obbligo di consolidare il debito di Telecom nei conti di Vivendi. E qui diciamo la prova principe è l'influenza stabile, dominante in assemblea. Obiettivamente i fondi sono talmente tanti nel capitale di Telecom e sono sempre molto attivamente presenti in assemblea, che è vero che la posizione di Vivendi non è praticamente mai sicuramente maggioritaria nelle assemblee ordinarie. È anche vero, ma non è questo il riferimento di legge, che nell'assemblea straordinaria in cui l'azienda aveva chiamato i soci per l'agognata conversione del risparmio che il mercato attendeva dai tempi della privatizzazione, Vivendi non si è opposta, ma astenendosi ha fatto saltare l'operazione, che l'avrebbe diluita ovviamente, perché la loro quota è sulle azioni ordinarie. Certamente. Quindi, insomma, diciamo, se si vuole stare alla forma, ci sono probabilmente gli elementi per dire che non eserciti controllo. Se si può andare oltre alla sostanza, qualche dubbio viene. Ecco Antonella, 349-238-6666 ci si chiede, è questa una delle tante conseguenze anche del braccio di ferro tra Roma e Parigi sulla storia dei Fincantieri? Cioè si voleva la Consob magari portare allo scoperto Vivendi in qualche maniera per far rientrare in questo braccio di ferro tra i due paesi? No, non c'entra nulla? Allora io francamente non credo, anche perché stiamo parlando di realtà comunque molto diverse come peso, cioè non si può pensare di scambiare Telecom, che è il quarto gruppo italiano, comunque la quarta società italiana, certo, con Cantieri Navali di Marsiglia, che hanno ben altre dimensioni. E mi pare che anche le dichiarazioni del governo fossero in questo senso. Del resto, proprio il giorno in cui Parigi annunciava la volontà, diciamo così, di nazionalizzare i cantieri che interessavano, cioè non che interessavano, dove aveva investito più, sì, cantieri, i francesi privati di Vivendi hanno dichiarato l'avvio dell'attività di direzione e coordinamento su Telecom, quindi non poteva il governo astenersi dal verificarsi questa, che è una eventualità che non si è mai verificata in passato formalmente, non aveva implicazione per quanto riguarda i poteri speciali. Certo. Ci sono due asset importanti in Telecom, sono la rete nazionale e la rete internazionale di Sparco. Ecco, Le Monde la definisce questo scambio di comunicazioni tra Consob e Vivendi una guerra di posizione. Antonella, aiutaci a capire invece che ruolo gioca la normativa sulla Golden Power in questo caso. Allora, il punto è che è una normativa che insomma, ha avuto una gestazione molto difficoltosa, perché in pratica in Italia c'era Golden Share, che era una specie di pillola avvelenata che non era ritenuta compatibile con le regole dell'Unione Europea. Mi verrebbe da dire come mai allora è stato lasciato nello statuto dei cantieri navali la possibilità di prelazione al governo francese, che di fatto l'ha esercitata. Mi sembrava ben analoga. Comunque, questa normativa, che è stata un po' frutto di approssimazioni successive, non è mai stata applicata nei confronti di un soggetto europeo, come in questo caso, e secondo me farà scuola. Non si può pensare però che per la forma allo Stato rinunci a dire la sua su asset strategici, perché sono strategici per ogni paese le telecomunicazioni nazionali. Non si può pensare che il governo non possa avere nessunissima voce in capitolo. Non si tratta di nazionalizzare o di fare espropri o di pretendere chissà che cosa, ma voglio dire, un minimo di presidio pubblico e porre delle condizioni perché siano salvaguardati gli interessi nazionali, certo, e non certo. Subordinati alle convenienze private, mi sembra il minimo. Hai usato il termine giusto, che almeno un minimo di presidio pubblico. Antonella, immagino che la vicenda Vivendi Consob Team la seguiremo anche nei prossimi giorni. Per il momento ti ringrazio, grazie ad Antonella Olivieri, collega del Sole 24 Ore. Noi cambiamo argomento, andiamo verso la chiusura di Focus Economia, torniamo a parlare degli effetti del retail, sul retail, del grande boom dell'e-commerce. E si attesterebbe intorno all'1,5 miliardi di euro il valore delle vendite di Amazon in Italia. Il gruppo non fornisce dati ufficiali, ma questa è la cifra che si può stimare considerando una quota del 15-20% sul totale dell'e-commerce italiano, che vale 20 miliardi di euro, quindi una quota importante da parte di Amazon. Ma non parliamo di questo e anche di questo solo per le quote di mercato, ma anche per il cambiamento a livello sociale che sta avvenendo, negozi che probabilmente potrebbero chiudere in funzione dell'ulteriore sviluppo dell'e-commerce. Ne parliamo con Laura Cavestri, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Laura. Buon pomeriggio. Laura, c'è questa preoccupazione da parte della rete commerciale italiana di fronte alla crescita esponenziale dell'e-commerce, dell'online, della forza di Amazon. È una preoccupazione giustificata? È una preoccupazione in parte giustificata, perché negli Stati Uniti già si stanno verificando. Naturalmente gli Stati Uniti sono molto più avanti per quanto riguarda il commercio elettronico, è molto più diffuso capillarmente. Ci sono alcuni effetti considerati preoccupanti: perdita di posti di lavoro, soprattutto nei grandi mall, nei grandi department store tipici in qualche modo della provincia americana, dove si vendono moltissimi prodotti. Ci sono metrature, metri quadri importanti, sono enormi spazi commerciali che hanno anche fatto da ammortizzatori sociali in questi anni, perché molta della disoccupazione della provincia americana è stata assorbita in qualche modo da questo nuovo business che si è diffuso. Naturalmente l'e-commerce toglie spazi, perché l'e-commerce cresce tantissimo negli Stati Uniti, dove da ottobre si calcola che siano hanno già persi circa 100.000 posti di lavoro, e cresce moltissimo anche in Europa, certo. Sia in Italia che come dire quest'anno nel 2016 ha chiuso a 20 miliardi di euro, nel 2017 chiuderà probabilmente a 23 miliardi di euro, e ancora il 5,5-5,6% del totale, come dire, del retail italiano, ma è sicuramente una grande crescita soprattutto in alcuni settori. Volevo solo dire che il calcolo per quanto riguarda il dato di Amazon, sì, dei, come dire, di giro d'affari sull'Italia di Amazon, dato che ovviamente, come dire, la società non fornisce, non elabora ufficialmente per paese, è in qualche modo una stima derivante dalla quota, come dire, di retail al dettaglio, di consumer retail, che è di 9 miliardi sui 20 miliardi sui di e-commerce totale. E considerando che gli addetti lavori quantificano una quota di mercato di Amazon intorno al 15-20%, abbiamo stimato, ecco, un valore intorno al 1,5 miliardi circa. Insomma, sicuramente è sicuramente uno dei player, forse il player principale ovviamente del nostro e-commerce, ecco, e crescerà ancora. Certo. Laura, in un minuto che andiamo a chiudere, abbiamo detto della preoccupazione per quanto riguarda gli operatori in Italia. Opporsi all'evoluzione tecnologica è impossibile, nessuno lo vuole. Quale può essere la trasformazione di chi non vuole farsi uccidere, tra virgolette, da Amazon? Le strade ancora ovviamente si stanno un pochino cercando. Certamente molti addetti ai lavori anche nel mondo del retail tradizionale concordano sul fatto che probabilmente a soffrire saranno, come negli Stati Uniti, come in Italia, le grandi metrature, la grande distribuzione, quella in qualche modo iper, o degli store che non sono così enormi in Europa, sì, ma sicuramente sono importanti. Sicuramente si può fare, però si può integrare molto meglio il negozio tradizionale con il negozio virtuale, sviluppare ancora di più l'e-commerce, che da noi comunque è ancora ad un passo, come dire, molto molto molto più lento, e iper specializzarsi, fornire servizi aggiuntivi, certo, fornire assistenza, fornire, come dire, una consulenza specializzata, è sicuramente una strada in cui i piccolo medi possono fare la differenza. Bellissimo. Anche in un mondo integrato con il virtuale. Grazie Laura Cavestri, collega del Sole 24 Ore. Per oggi è veramente tutto. Un ringraziamento allora a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Gianmarco Ferronato in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.